della beltà negli occhi, o te felice, vidi per te che fave l'amore. Ah, Orlando, Orlando, non conosci Alcina? Alcina? Alcina è questa. Quella che a suo voler volge l'inferno. Il cui potere eterno ora sarà, poiché ha acquistato all'urna che del saggio Merlino il ciel chiude. E a custodirla ho tratto l'immortale Arronte, invulnerabile. Il fatale d'un demone concetto e d'una maga. Invincibile, possente, di ferrea mazza e di gran cuore armato. L'alto trionfo a me riserva il fato. Lieto astolfo ed impara dal mio core che ai rai di poca speme si figura in amor.